Ed eccoci giunti, carissimi, al nostro consueto appuntamento col Santo Curato d'Ars, e siamo ormai alla 56esima puntata. Come sapete, in questo periodo stiamo facendo passare le sue virtù una per una, o almeno le virtù che lo caratterizzano e che meglio ci fanno conoscere la sua personalità. Virtù che egli praticò in grado eroico, che vuol dire, come abbiamo già spiegato, non solo eroicamente in qualche occasione, ma proprio con una disposizione d'anima ordinariamente incline all'eroismo, come dimostrano i molti fatti già citati. Ebbene, seguendo il suo biografo, noi stiamo esaminando anzitutto quella che è, alla fin fine, la base portante di tutte le virtù, cioè l'umiltà. Senza umiltà non può esistere alcuna virtù, perché l'umiltà stabilisce le giuste proporzioni e fa vedere tutte le cose nel loro valore reale e non fittizio. Quindi attraverso l'umiltà noi diamo a Dio il posto che gli spetta, anzitutto, il posto che gli spetta di diritto, in quanto creatore e signore del cielo e della terra, in quanto essere perfettissimo, in quanto misura di tutte le cose, in quanto sommo bene e nostra eterna felicità. E inoltre mettiamo pure l'uomo al posto che gli spetta, quindi mettiamo anche noi stessi, l'uomo che di per sé è nulla, vero? Provenendo appunto dal nulla, ma che Dio ha voluto fare grande, grandissimo, anzi ha voluto fare addirittura simile a sé, simile a Lui. Quindi l'umiltà ci porta sia a riconoscere il nostro nulla, ma ci porta pure a riconoscere i grandi doni che Dio ci ha fatto, che però, come sapete, oltre ad essere doni sono anche responsabilità e quindi vanno trafficati con molto impegno e con la prospettiva che alla fine Dio ce ne chiederà conto, e quindi vanno usati e fatti crescere non per farsene un vanto, ma piuttosto con timore e tremore, appunto nella prospettiva severissima del futuro giudizio di Dio, che sarà sì un giudizio di misericordia, ma che sarà anche un giudizio giusto ed esigente e assai minuzioso. Ecco, questa è l'umiltà, carissimi, la virtù delle giuste proporzioni, la virtù dell'equilibrio. La virtù che ci porta a stimare ogni cosa e ogni persona umana e divina per quello che vale, o meglio, per quello che è, ossia in base alle qualità del suo essere. E il Curato d'Ars, come abbiamo già detto, come abbiamo già visto, aveva molto spiccato il senso dell'umiltà. E l'umiltà, oltre a dargli un forte senso della grandezza di Dio e della sua infinita maestà, e oltre a fargli apprezzare moltissimo ogni persona in quanto immagine di Dio, lo orientava anche verso una giusta valutazione di se stesso. Il Curato d'Ars capiva benissimo di essere al centro di un vasto movimento spirituale, sì, movimento che ruotava proprio attorno a lui, attorno alla sua persona, come al suo perno. E difatti, come sapete, quell'unica volta che ebbe occasione di mancare da Ars, no, per circa una settimana, quando si ritirò presso il fratello Francesco, come sapete, ad Ars non si vide che desolazione e facce tristi, e alcuni pellegrini tentarono addirittura di raggiungere il santo nella nuova temporanea residenza. Quindi lui era consapevole di essere al centro di un vasto movimento spirituale, ma attenti, se ne guardava bene dall'attribuire a sé questa grazia e questo merito. Egli non si riteneva che un buono a nulla, e difatti i superiori non lo volevano neanche ammettere al sacerdozio, tanto era tardo di mente, e di ciò il nostro santo era più che cosciente, più che consapevole, quindi riteneva tutto ciò una grazia immeritata, che comunque lo obbligava a enormi sacrifici e a incredibili penitenze, Quindi il curato d'Ars, ben lungi dal montarsi la testa, ha inteso questo incredibile successo apostolico pastorale piuttosto come un peso, come un dovere, come qualcosa che invece di gratificarlo, di gratificarti, ti seppellisce sotto un mare di impegni e ti costringe a una vita disumana. Allora, carissimi, a questo punto vogliamo ascoltare alcuni pensieri del Santo appunto sull'umiltà. Così abbiamo modo di completare questo argomento tanto affascinante e tanto edificante. Ecco, cominciamo a dire che Don Vianney non si valse mai della sua fatica sovrumana per domandare privilegi. E se negli ultimi anni del suo ministero fu dispensato dalla recita dell'ufficio divino, ciò avvenne unicamente per opera del suo coadiutore Don Tocanier. E sembrava pure che la sua fama di confessore santo e quindi la sua esperienza di anime dovessero rendere superflua l'annuale richiesta delle facoltà per amministrare tale sacramento. Invece no, invece ogni anno, fino al 1858, perciò fino all'ultimo, domandò il rinnovo dei suoi poteri di giurisdizione, qualche volta direttamente al vescovo, qualche volta a un vicario o provicario generale. Già sappiamo con quale mirabile sentimento di riconoscenza egli accettasse dal clero, anche da sacerdoti giovani e meno stimati di lui, ogni genere di correzioni. Aggiungeremo qui che anche quando godette della venerazione generale dei confratelli, continuò tuttavia a considerarsi come loro inferiore, eseguendo così alla lettera il precetto di San Paolo che dice: ognuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. Filippesi 2:3. E i sacerdoti, i suoi confratelli, li ricevette sempre con grandi dimostrazioni di affetto, di rispetto. Li circondò costantemente della massima venerazione e volle sempre fare assegnamento sulle loro preghiere. Dobbiamo dire inoltre, carissimi, che egli vide inginocchiarsi al suo confessionale e sedersi attorno alla sua cattedra, al suo pulpito, vescovi, predicatori insigni, laici ragguardevoli, eccetera, eccetera. Ma egli dichiarò sempre di preferire a tali visite illustri quella di un mendicante che gli chiedesse l'elemosina. Sappiamo che una volta un grande giurista del tempo venne a consultarlo su difficoltà che gli sembravano insolubili. E il santo, dopo averlo ascoltato, gli diede immediatamente il giusto indirizzo, lasciando meravigliato l'illustre uomo di legge. Ma badate, Don Vianney non aveva neppure pensato di chiedergli il nome. E dopo che erano venuti a darsi il prefetto e il generale delle truppe del dipartimento per felicitarsi con lui per la sua promozione alla Legion d'Onore, il conte di Garegli disse: «Signor curato, Ars riceve i potenti della terra». E il santo, con assoluta indifferenza, commentò: «Beh, sono corpi e anime», come dire appunto che non si trattava di personaggi diversi, di personaggi divini, ma di semplici uomini, anche se rivestiti di grande autorità e di grande responsabilità. Due famosi predicatori dell'epoca vennero ad Ars per prendere lezioni di zelo e di eloquenza dal nostro santo e se ne partirono pieni di meraviglia e di edificazione per la potenza e il fascino che emanava dalla sua persona e dalla sua parola. Monsignor Allou, vescovo di Meaux, lo si vide assistere alle sue prediche per 8 giorni consecutivi, confuso tra la folla dei fedeli. Monsignor Dupanlop e il cardinale de Bonald fecero il viaggio ad Ars per avere consigli, eccetera, eccetera. Ma attenti, Il santo non sembrava accorgersi di essere l'oggetto della loro pia venerazione, che riceveva come se fosse diretta ad altri. La sera del 3 maggio 1845 giungeva in incognito ad Ars e prendeva alloggio al castello il padre Lacordaire, che da tempo desiderava vedere il santo. E ricordiamo che padre Lacordaire, domenicano, era il più celebre predicatore della Francia e dell'Europa. E convennero attorno al suo pulpito nella Basilica di Notre-Dame a Parigi i più illustri e nobili personaggi dell'epoca. Bene, alle 5 del mattino egli si recò alla chiesa e Don Vianney, nella gioia di vederlo, lo abbracciò con effusione, stringendogli più volte le mani mentre lo ringraziava con un sorriso di straordinaria felicità. E gli preparava per la messa il calice più prezioso e i paramenti più ricchi. Alle ore 10, essendo domenica, l'illustre predicatore aveva preso posto nel banco riservato alla famiglia dei conti di Garé per assistere alla messa del curato, durante la quale il santo avrebbe tenuto la sua omelia sul modo di ricevere lo Spirito Santo. Nel pomeriggio egli ritornò in chiesa per il catechismo, fatto ancora dal servo di Dio. Poi accettò di cantare i vespri e di dire una parola al buon popolo di Ars e ai pellegrini. Ma dobbiamo dire, carissimi, che questa circostanza per molti, e specie per quelli che erano appena arrivati ad Ars, fu una vera delusione, dato che avrebbero preferito ascoltare il curato invece del grande predicatore domenicano. Tanto più che l'umiltà di Don Vianney, di cui egli era ospite, dovette suggerirgli di rendere più sobrio il suo eloquio, per cui delusione generale. Un testimone di questa scena dice che mentre il grande oratore teneva la sua predica, il santo ascoltava commosso, manifestando un'intensa attenzione. Bene, il lunedì seguente, cioè l'indomani di questi fatti, i sacerdoti delle parrocchie vicine, riuniti per la solita conferenza mensile, avevano fatto colazione al castello insieme al padre Lacordaire. E uno dei convitati gli rivolse queste parole: «Il curato d'Ars vi sarà sembrato ben poco eloquente, vero?» Risposta: «Ha predicato come dovrebbe fare ogni buon parroco». Del resto, il giorno prima, il grande oratore aveva detto al maestro Pertinand, aveva detto queste parole: «Questo santo prete, parlando dello Spirito Santo, ha espresso in modo convincente un pensiero sul quale riflettevo da lungo tempo». E dobbiamo dire inoltre, carissimi, che Don Vianney sembra abbia approfittato di questa visita per umiliarsi anche di più, In quei giorni disse infatti a Don Raymond: «Voi conoscete la teoria dei due estremi che si toccano. Ebbene, si è avverrata anche ad Ars in questi giorni, sul nostro pulpito, dove si sono viste la più alta scienza e la più bassa ignoranza». Ecco allora, carissimi, vediamo finalmente, giunti a questo punto, i famosi pensieri del nostro santo sull'umiltà. Dobbiamo dire che l'umiltà fu una virtù sempre cara al curato Vianney. E ne aveva tale culto, come ci testimonia fratello Atanasio, che ne parlava sempre, specialmente nelle sue istruzioni. Ai fratelli della Sacra Famiglia, per esempio, non si stancava mai di ripetere: «Siate umili e semplici. Più sarete umili e maggiore sarà il bene che compirete». Ecco, mi sembra questa un'osservazione molto giusta. Più siamo umili e più possiamo fare del bene. Chi mette nel bene che compie anche solo una punta di orgoglio, e non dico che rovina tutto, no, ma se non altro compromette buona parte del valore di ciò che sta facendo. Perché? È perché la sua intenzione non è del tutto pura, non è del tutto retta, pulita. E quindi l'opera che compie non è un'opera proprio divina, ma è anche molto umana. ne va di conseguenza che sarà un bene molto relativo, che avrà quindi anche un'efficacia molto relativa. E alla fine servirà di più a ottenere riconoscimenti umani che non il premio celeste. Attenti, il curato d'Ars raccontava volentieri questa storia. Il diavolo apparve un giorno a San Macario, che era uno dei solitari della Tebaide, e gli disse: «Tutto quello che fai tu so farlo anch'io. Tu digiuni, ebbene, io non mangio mai. Tu vegli e io non dormo mai. Ma vi è una cosa che tu fai e che io non so fare». «Quale?» chiese San Macario. E il diavolo rispose sconsolato: «Umiliarmi». Ecco, mi pare un racconto bellissimo, eh? Qualsiasi giudizio si possa dare sulla sua storicità. Il grande pregio del cristiano che lo distingue dai demoni e dai dannati è proprio quello che lui, il cristiano, riesce a umiliarsi davanti a Dio e agli uomini, loro invece no. Il demonio nell'inferno e tutti i suoi infelici abitatori vivono di orgoglio, vivono di superbia, per cui sono proprio costituzionalmente incapaci di piegare il ginocchio davanti a Dio. Ciò è loro impossibile. Essi vivono totalmente in funzione di sé, per affermare se stessi, anche se ora hanno perso ogni dignità e sono ridotti a povere larve umane e povere larve angeliche. Ecco, eppure attenti, sembra che i demoni dannati abbiano nostalgia di potersi umiliare e di sapersi umiliare. Perché? Perché hanno capito che proprio in questo consiste la dignità dell'uomo, proprio in questo consiste la massima gloria per l'uomo. L'uomo è grande quando sa, quando riesce a piegare le ginocchia davanti a Dio. Sì, è grande, perché in questo modo egli, accettando umilmente la sua subordinazione, per ciò stesso entra in comunione con Dio e così partecipa alla dignità stessa di Dio. Mentre invece chi non sa umiliarsi si esclude, si autoesclude dalla comunione con Dio, non riconoscendolo come suo Signore, e quindi una volta tagliato questo cordone ombelicale che lo lega al suo creatore, ecco che l'uomo è automaticamente tagliato fuori da ogni genere di dignità, se non quella dignità falsa, fittizia, che ti sa dare il mondo, rappresentata da quelle foglie di fico, no? Che i progenitori si sono messi addosso, si sono intrecciati per coprire la loro sostanziale nudità e povertà ontologica. Quindi umiliarsi, carissimi, non è vero che impoverisce, ma semmai umiliarsi arricchisce. E fin quando uno non si umilia, non potrà mai arricchirsi. Né materialmente, né tantomeno spiritualmente. Perché? È appunto perché chi vuole arricchire deve sempre partire da un sentimento di insufficienza, vero? Tenta di arricchire uscendo da se stesso chi si sente povero. Chi sente cioè di mancare di qualcosa di cui sente il bisogno. Perciò fin quando uno non si umilia, non si abbassa di fronte a Dio, ma anche di fronte a se stesso e agli altri, non potrà mai fare dei passi avanti e sarà condannato a un graduale e progressivo impoverimento ontologico e morale. E allora vediamo qui, carissimi, per concludere, un'altra celebre frase del curato d'Ars, una frase che al dire di Don Toccanier egli ripeteva molto spesso, sia nelle prediche come in confessionali, come nelle conversazioni private comuni. Diceva: «L'umiltà è per le virtù quello che è la catena per la corona del rosario. Se voi togliete la catena, i grani cadono. Se voi togliete l'umiltà, tutte le virtù scompaiono». Ecco, mi pare che anche qui il curato d'Ars ci riveli, ci esprima una grande verità. L'umiltà, come abbiamo già detto, è la base portante di tutte le virtù. Per cui se tu togli alla casa, all'edificio, se tu togli le fondamenta, ecco che tutto crolla. Quindi chi non è umile, o almeno non si sforza di essere umile, non è in grado di praticare alcuna virtù. Notate, neanche la fede, anzi in modo particolare la fede, che presuppone più che per le altre virtù un sentimento di umiltà. Si apre a Dio nella fede chi sente di essere povero, vero? E di aver bisogno del Signore. E inoltre si fida del Signore chi sa confrontare la propria miseria con la sua infinita grandezza, chi sa confrontare la propria insufficienza e ignoranza con la sua infinita sapienza, eccetera. Come vedete, la fede non può non essere impregnata di umiltà. Se togli l'umiltà, non c'è più neanche la fede. E così per tutte le altre virtù, cominciando dalla speranza e dalla carità. E cosa può sperare il superbo, che crede di possedere già tutto e di non aver bisogno di nulla e di nessuno? E chi può amare veramente il superbo, dato che il suo cuore è già così pieno, così ingombro del proprio io? Anche in questo perciò il curato d'Ars aveva ragione, e le sue parole sono sacrosante. Speriamo solo, carissimi, di poterlo un po' imitare. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.